mare, dal vento a respirare, dalla pioggia a cadere, dalla corrente a portare le cose dove non vogliono andare, e avere la pazienza delle onde di andare e venire, ricominciare a fluire. Un aereo passa veloce e io mi fermo a pensare a tutti quelli che partono, scappano o sono sospesi per giorni, mesi, anni, in cui ti senti come uno che si è perso tra obiettivi ogni volta più grandi. Succede perché in un istante tutto il resto diventa invisibile, privo di senso e irraggiungibile per me. Succede perché fingo che va sempre tutto bene. Ma non lo penso. In fondo. Torneremo ad avere più tempo e a camminare per le strade che abbiamo scelto, che a volte fanno male, per avere la pazienza delle onde di andare e venire e non riesci a capire. Succede perché in un istante tutto il resto diventa invisibile, privo di senso e irraggiungibile per me. Succede anche se il vento porta tutto via con sé. Vivendo, ricominciare a fluire, ricominciare a fluire, ricominciare a fluire, ricominciare a fluire.